Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Domenico Menniti. Affinare il fiuto in situazioni difficili. A cura di Anna Marino. Napoli è una delle cose più belle che Dio ha dato agli uomini sulla terra, ma è una città che come tante altre, come Rio de Janeiro, come New York, è una città dalle mille contraddizioni. Così parla della sua città, Napoli, Domenico Menniti, attuale amministratore delegato di Armont & Blaine, società che produce, commercializza e distribuisce abbigliamento sportivo di classe, contraddistinto dall'ormai noto marchio del Bassotto. Non nasconde il fatto che sia un territorio difficilissimo e disagiato, in particolare quello di Caivano, dove è concentrata tutta la produzione, 150 dipendenti e 600 di indotto. È la periferia di Napoli, tristemente nota per vicende legate all'emergenza rifiuti e ad altre problematiche. Malgrado le difficoltà, l'azienda napoletana invece continua a crescere, con un aumento del 10% e una quota di 44 milioni di euro di fatturato nel 2009. Sull'onda del proprio motto, da Napoli si può. Forse uno degli elementi più difficili è stato l'emergenza rifiuti che ha portato Napoli in termini negativi all'attenzione del mondo. Io ricordo circa due anni fa, in occasione di una delle manifestazioni fieristiche più importanti del mondo, anzi la più importante nel mondo della moda maschile, Pitti, a Firenze, dove il 50% del mio tempo è stato speso a spiegare e a rispondere alle domande di chi, dalla Cina piuttosto che dal Messico, dalla Russia o dal Giappone, veniva a chiederci come facevamo a convivere, come facevamo noi a parlare di profumo di Armont & Blaine quando il solo evocare Napoli evocava immagini neanche da terzo mondo, perché non esiste in nessuna parte del mondo quello che si vedeva da noi. Ci siamo riusciti, oggi Napoli è vivibile, oggi questi problemi che Napoli ha avuto tempo fa pare che comincino ad affiorare in altre parti dell'Italia, questo non ci fa piacere, però non è un problema legato solo a Napoli. Uno dei segreti del successo e del posizionamento di Armont & Blaine è proprio il suo logo, un piccolo cane bassotto. La storia di questo simpatico e buffo cane rispecchia infatti la filosofia e i valori dell'azienda. Pochi infatti sanno andare oltre l'apparenza e pochi conoscono le caratteristiche di questo cane. Visto che la natura gli ha riservato un fisico più buffo che efficiente, il bassotto ha affinato intelligenza e fiuto, tanto da essere riconosciuto tra i migliori segugi. Così anche Armont & Blaine, che nasce a Napoli nel difficile contesto degli anni Ottanta, ha dovuto affinare fiuto e intelligenza per affermarsi in un mercato impegnativo e competitivo, come quello della moda made in Italy. Innanzitutto il bassotto nasce perché era un animaletto che rappresentava figurativamente proprio la nostra storia. Il bassotto è un animale, è un cane dalla doppia anima, è un cane che la gente pensa essere un cane inglese abbinandolo e associandolo alla brughiera inglese, ed è un cane tedesco. Oggi è il cane per eccellenza di compagnia dei bambini, non è vero, è un cane da caccia, è un cane che non ha stazza fisica e quindi deve lavorare con l'intelligenza, è un cane da tana. È il cane che ti aspetti vedere uscire da sotto le macerie di un terremoto con quelle zampette corte, è difficile stienarlo, si scrolla un po' di polvere di dosso e continua a camminare. Eravamo noi che venivamo fuori da una tragedia, dal terremoto del 1980, che venivamo fuori dalla tragedia della guanteria, dico tragedia della guanteria perché si avvitava in una crisi irreversibile. Eravamo noi che con un fatturato pari a un prefisso telefonico, 0, ci ponevamo come obiettivo di diventare competitor di mostri sacri che all'epoca, prima della partenza dell'euro, fatturava già 1.000 miliardi delle vecchie lire e noi eravamo a 0. La storia dell'azienda è infatti impregnata di questa filosofia della resistenza in situazioni difficili. Prima di arrivare al successo negli anni 2000, Harmont & Blaine è passata attraverso mille difficoltà e ha cambiato diversi settori di business, dalla produzione di guanti in pelle, settore che poi conosce una crisi pesante, a quella di cravatte, fino ai costumi da bagno per taglie extra large, per poi raggiungere il successo con il nuovo secolo grazie all'intuizione di connotare con il colore anche i capi più classici. Il primo passo è una decisione di famiglia, nel 1986. Quattro fratelli seduti su una panchina, inizio anni 90, che dicevano: bene, ora cosa facciamo? La chiave di volta è stata nella capacità di passare dall'altra parte del tavolo e abbiamo cominciato a ragionare come ragiona il consumatore. E il consumatore in quel momento probabilmente ci accettava e avrebbe accettato una cosa diversa, e abbiamo cominciato a poco, come le formichine, e abbiamo cominciato a giocare con il colore, con un costume da bagno colorato, facendo dei costumi grandi taglie, arrivavamo fino all'84, dal fornire un prodotto alla soluzione di un problema. Anche per una famiglia imprenditoriale alla prima generazione, prima o poi, capita di occuparsi del passaggio generazionale. Così lo pensa e lo descrive in anticipo Domenico Minniti. Nella nostra ottica c'è, non credo che ci sia una ricetta valida per tutti. Nel nostro gruppo si litiga spesso e si litiga tanto, significa che si discute, si confrontano e si scontrano le idee. Una volta presa la decisione però diventiamo un carro armato e andiamo tutti avanti. Abbiamo già degli ingressi delle nuove generazioni all'interno dell'azienda. E mia figlia si interessa della comunicazione, mio nipote si interessa dell'estero, entreranno degli altri. Il problema fondamentale resta quello di non confondere la proprietà con la capacità di gestione. Le due cose vanno tenute assolutamente separate, perché se si mischiano questi due concetti alla fine si corre il rischio di perdere anche la proprietà. Quale sarà l'obiettivo, il nostro obiettivo? Entro il 2013-2014 questa azienda arriverà in borsa. Ci stiamo attrezzando, significa che stanno entrando dei manager esterni all'interno dell'azienda. Gradualmente l'azienda cresce, l'azienda dovrà avere una vita autonoma e dovrà avere la possibilità di trovare le proprie vie al di là del discorso personale e dei cognomi che si ripetono in azienda, ma la storia ci dice che dopo due generazioni bisogna cominciare a guardare un attimo avanti se si vuole dare continuità alle cose che abbiamo avuto la fortuna di poter costruire. Dal lavoro non si scappa e Napoli, per Domenico Menniti, è una bella città in cui lavorare, ma nel bilanciare vita e lavoro ci sono alcuni segreti che ci rivela. Io continuo a correre oggi come e forse più di quando avevo 20 anni, ma traggo l'energia perché faccio una cosa che mi piace. E poi ho un segreto: continuo a restare lo stesso uomo che ero 20 anni o 30 anni fa. Ho il mio rifugio segreto, dico molto banalmente, il mio caricabatteria, che non è un luogo mondano, è una piccola località turistica sullo Ionio Calabrese, si chiama Pietragrande. Nei territori d'origine riesci a trovare quei rapporti che avevi ancora quando eri a scuola e respiri un attimo il mare e dei profumi incredibili che sembra che non ci siano da nessun'altra parte. Oggi la crisi morde ancora una volta, ma Harmont & Blaine non ha intenzione di fermarsi. Tra le novità, per il 2010 è allo studio la trasformazione di Harmont & Blaine S.p.A. in una holding, e all'orizzonte si fanno sempre più concrete nuove aperture internazionali. Dopo la recente inaugurazione del punto vendita di Istanbul presso la Galleria Atakoy, ci saranno a Miami e Hong Kong. Si vedrà il Bassotto fare il proprio ingresso entro la prossima primavera in Cina, accompagnato dal nuovo partner Fairton Hong Kong Limited, a Pechino e Shanghai, in Medio Oriente, a Beirut e il Cairo, e in una seconda boutique a Istanbul presso Istinye Park. Ma le difficoltà finanziarie anche di paesi colpiti da vicino, come Dubai, non spaventano. Non mi piace parlare di crisi. Normalmente parla di crisi chi dalla crisi viene, da questo stato di cose viene travolto e non essendo attrezzato per un riposizionamento o per resistere, non trova altro che attribuire ad elementi esterni, che pure ci sono, i propri problemi. Io invece sono uno abituato a ragionare in una maniera diversa. Quando un partner dal Libano piuttosto che da Dubai stesso deve scegliere nel nostro settore qualcuno col quale fare una passeggiata per i prossimi 5 anni assieme, guarda non solo la creatività ma la possibilità concreta che questa azienda sia ancora in vita e in piena salute per accompagnare in un progetto comune i prossimi 5 anni. Bene, noi siamo fra questi. Questo ci porta ad avere i progetti della seconda apertura in Turchia. Apriremo la terza boutique a Dubai nonostante la crisi, apriremo l'Armont & Blaine Café a Dubai, progetto che abbiamo licenziato nella settimana scorsa, perché non è cambiato nulla. I problemi che c'erano un anno fa a Dubai ci sono ancora oggi, sono gli stessi. Quella è un progetto malato di gigantismo. Napoli però è il centro della politica aziendale. Il 26 ottobre 2009 è stato presentato Fabio Cannavaro, napoletano come Armont & Blaine, che sarà il testimonial delle prossime 5 stagioni, a partire dall'attuale collezione autunno-inverno 2009-2010. Armont & Blaine ormai è consacrato porta fortuna, quindi noi vogliamo portare fortuna così come abbiamo portato fortuna nel 2006 a Fabio Cannavaro e alla nazionale italiana. Dall'altra parte abbiamo di ritorno una immediata percezione, prima di definire l'accordo con Fabio Cannavaro, abbiamo sentito un po' in giro dalla Cina ai paesi arabi, all'America, il gradimento, la riconoscibilità di questo volto, che è un volto che è il volto italiano oggi più conosciuto nel mondo.